allora bene, è bastata una breve pausa musicale per entrare in collegamento con una compagna dell'assemblea di Non Una di Meno Roma, nonché di Lucia e Siesta. Benvenuta qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Con te volevamo parlare dell'appuntamento previsto insomma a Roma, ma insomma in tutto il mondo, in particolare in Argentina, in merito alle votazioni che insomma ci saranno nel Senato argentino rispetto alla depenalizzazione dell'aborto. Ti chiederei insomma di partire dal contesto argentino. Qual è lo stato attuale rispetto all'aborto, un po' per ricordarlo a tutte e tutti quanti, e quali sono le mobilitazioni che hanno infiammato l'Argentina per portare insomma alla giornata di domani? Sì, innanzitutto grazie a voi e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. E dunque, per domani è stato convocato a livello internazionale, proprio dalle compagne argentine, il Paño Elasto Internacional, che è un po' difficile da tradurre, un po' come la casserolata, perché in italiano perde un po' di significato, no? Il fazzoletta. Non c'è proprio una traduzione. Comunque l'idea appunto questa è quella del pannuello, no? del triangolo di stoffa verde, con il simbolo tra l'altro del pannuello che viene ancora utilizzato dalle madri di Piazza di Mayo, e che è stato il simbolo di tutta la battaglia delle compagne argentine per l'aborto libero e gratuito. In Argentina non esiste una legge che riconosca il diritto all'aborto legale, sicuro e gratuito, come peraltro in molti altri stati dell'America Latina, e le compagne, il movimento per l'aborto da molti mesi sta veramente facendo una campagna importantissima nel paese per riuscire a raggiungere appunto l'approvazione di questa legge. C'è stato già l'approvazione da parte della Camera il 15 giugno scorso, la Camera del Parlamento argentino ha votato a favore, ci sono stati per pochissimi voti, ci sono stati 129 voti favorevoli contro 125 voti contrari, e quindi è stato il raggiungimento veramente di un obiettivo estremamente importante per le compagne e per il movimento. È stato molto emozionante, molti di voi se lo ricorderanno, e vedere le immagini e i video della piazza davanti al Parlamento. Le compagne e le attiviste del movimento si erano radunate già da 12 ore prima, e dalla polizia era stato dato uno spazio molto piccolo, mentre pian piano appunto l'arrivo era stato dato addirittura uno spazio piccolo alle attiviste per l'aborto e un altro spazio al movimento antiabortista, mentre invece il movimento a favore dell'aborto aveva riempito completamente la piazza con 1 milione di presenze, ed era stato molto molto emozionante vedere appunto le compagne, le attiviste celebrare quella sera, quella notte, il raggiungimento appunto dell'obiettivo con l'approvazione della legge. C'è da ricordare che come loro stesse hanno detto durante questa campagna, negli ultimi 35 anni in Argentina sono morte più di 3.000 donne per aborto clandestino, e che la battaglia è stata veramente dura e lunga in tutti questi mesi, perché il movimento antiabortista è stato anche, e la Chiesa sono stati estremamente forti nelle loro pratiche e nel contrastare quindi questa approvazione. C'è stato poi la necessità ovviamente di approvare anche al Senato questa legge e l'approvazione sarà proprio il giorno 8, domani, e per questo appunto le attiviste hanno convocato questo panelasso internazionale, cioè questi presidi davanti a tutte le ambasciate del mondo, con questo slogan "Siamo milioni", che vuol dire saremo milioni, quindi molte di più del milione che ha riempito le strade per l'approvazione alla Camera, e soprattutto determinando questa importanza, no, della rete internazionale di appoggio alla lotta delle attiviste argentine, ma non soltanto di appoggio, perché ovviamente ci sono delle importanti relazioni tra i movimenti in Argentina e i movimenti nel resto del mondo. Pensiamo che quest'anno, per esempio, solo quest'anno abbiamo visto le donne polacche scendere in piazza e scioperare per bloccare i tentativi del Parlamento polacco di proibire l'aborto, e abbiamo visto la grande vittoria anche in Irlanda il 25 maggio, con la vittoria del referendum per abrogare una legge costituzionale che proibiva l'interruzione di gravidanza in Irlanda. E tutte queste scadenze sono state ovviamente seguite dal movimento delle donne in tutto il mondo. E anche in Italia sappiamo perfettamente che domani saremo in piazza, non solo sicuramente per appoggiare il movimento argentino per l'aborto libero e gratuito, ma anche per significare quanto questa battaglia è importante anche per noi qui in Italia, visto che c'è un attacco costante alle libertà che ci siamo conquistate, e visto che abbiamo dovuto registrare proprio a 40 anni dall'approvazione della legge 194 che è avvenuta quest'anno, cioè il 40esimo, l'anniversario insomma di 40 anni dell'approvazione della legge, abbiamo dovuto registrare che il numero di medici obiettori ha raggiunto ormai una media nazionale del 70% e addirittura in alcune situazioni anche del 90% in alcune regioni, e dobbiamo ricordare che per quanto riguarda sempre l'Italia soltanto 390 strutture sulle 654 che abbiamo hanno reparti di ostetricia e ginecologia che effettuano interruzioni di gravidanza, e come sappiamo la pillola abortiva, la RU486, è somministrata da pochissimi ospedali in modo molto molto molto limitato. Quindi domani saremo in piazza, ricordo che l'appuntamento è per le 7 in piazza Esquilino davanti all'ambasciata argentina, che il presidio di domani è stato convocato da argentini e argentini autoconvocati, con l'appoggio appunto di non di meno Roma, che ha fatto su anche questa presenza. Tra l'altro hanno annunciato la loro presenza anche le Malemurghe con i loro suoni e la loro musica, e quindi l'appuntamento, ripeto, è alle 7 in piazza Esquilino numero 2 davanti appunto all'ambasciata. Ricordiamo anche che c'è una campagna fortissima sulle reti sociali, e seguendo appunto gli hashtag che sono "Siamo Millones" e 8A Sera Lei, si può vedere quante realtà stanno rispondendo appunto a questo appello che è partito dalle argentine. Io ho visto tutta una serie di Twitter che con presidi convocati in Australia, in Giappone, in Nuova Zelanda, tutta l'America Latina, Ecuador, Paraguay, Cile, Costa Rica, Messico, Perù, Colombia. In Europa sono tantissimi gli appuntamenti, a Bruxelles, a Londra, a Parigi, a Vienna. In Italia saranno due gli appuntamenti, uno a Roma appunto in piazza Esquilino e uno anche a Milano davanti al consolato argentino di via Agnello 2. e ricordiamo appunto che saremo lì con anche le nostre parole d'ordine, perché appunto pensiamo di dare estremamente valore a questa rete internazionale che abbiamo costruito in tutti questi mesi e in questi anni, no? Con lo sciopero dell'8 marzo, con lo sciopero internazionale dell'8 marzo, quindi saremo lì come nonna di meno a dire ancora una volta che per noi la sessualità non è finalizzata alla procreazione, che la maternità non è un obbligo, che l'importante è determinare e affermare sempre la nostra libertà di scegliere, e per questa libertà di scegliere lottiamo per una sessualità libera, e vogliamo consultorie che siano aperte alle donne di qualunque età, alle persone gay, lesbiche, trans e a tutte le migranti e a tutte le persone migranti che hanno necessità di questo servizio. Vogliamo che si espanda il discorso della contraccezione gratuita. Ricordo che alcune regioni italiane come la Puglia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Lazio e negli ultimi giorni anche la Lombardia hanno assunto appunto la contraccezione gratuita per giovani sotto i 24 anni e crediamo che questo obiettivo vada assolutamente esteso, perché la contraccezione va garantita in modo gratuito a tutti e a tutte. Vogliamo soprattutto ribadire il discorso di obiezione respinta, per dire no quindi all'obiezione, al famoso articolo 9 che determina l'impossibilità, la grande difficoltà per le donne che si trovano nella necessità di dover abortire, di poter accedere a questo servizio, per cui vogliamo che gli obiettori siano fuori dalle strutture sanitarie pubbliche e anche dalle farmacie. E quindi con tutti questi obiettivi che abbiamo tra l'altro ribadito in tutte le nostre manifestazioni, anche nel piano femminista contro la violenza, saremo domani a questo presidio in Piazza Esquilino numero 2 davanti all'ambasciata argentina. Noi ti ringraziamo davvero, una corrispondenza complessa che ci ha raccontato molto bene le ragioni che ci porteranno in piazza domani, non una solidarietà insomma unidirezionale, ma una lotta che si porta avanti in maniera trasversale in tutto il pianeta. Anche qui la situazione non è assolutamente pacificata, gli attacchi che riceviamo purtroppo tra l'altro non dipendono neanche dalle bandiere al governo. Per questa ragione che insomma una mobilitazione permanente che mantiene il punto costante sia capace insomma anche di coinvolgere sempre più donne e sempre più soggettività che vengono colpite dall'oppressione patriarcale è un obiettivo insomma non una di meno si dà. In alcuni momenti ha raggiunto davvero dei buoni picchi di partecipazione, speriamo che nonostante insomma l'agosto siano in tanti a partecipare domani, non solo in solidarietà alle sorelle argentine ma per tutte noi. Sicuramente, dimenticavo l'ultima cosa, se non avete un pannello verde, il triangolo di stoffa verde verrà sicuramente portato lì da alcune compagne che sono riuscite a farlo avere dall'Argentina, a fargli arrivare dall'Argentina, e comunque vestitevi di verde e portate anche voi le vostre parole d'ordine, i vostri cartelli, perché questa è una lotta dell'Argentina ma è una lotta anche nostra che dobbiamo assolutamente portare avanti. Ma ti posso fare una domanda insomma accessoria? Sì. Ma come mai questo colore? Il verde, sai che non lo so perché è stato scelto dalle compagne argentine, lo so che ci sono in Italia delle resistenze rispetto alle possibili relazioni politiche. No, ma la rivendicazione è abbastanza chiara, ovviamente in maniera a chi ci riferiamo è totalmente la controparte, quindi non c'è nessun equivoco. Sul pannuello sicuramente c'è il pannuello bianco delle compagne delle madri della Plaza de Mayo, però perché sia stato deciso il colore verde non lo so. va bene, ci accontentiamo. Noi ti ringraziamo davvero, a breve insomma saremo anche in grado di caricare la corrispondenza col sito, così che possa insomma funzionare da promemoria. Va bene, grazie. Grazie mille, grazie a voi, un saluto a tutte e tutti. A domani, ciao.